Sì, allora ci tenevamo a raccontarvi appunto l'iniziativa di questa mattina, in programma già da tempo, ma purtroppo slittata per l'emergenza neve che ha scombussolato tutti i programmi della città di Roma, e una iniziativa organizzata dal Comitato Romano Acqua Pubblica per lanciare ufficialmente la campagna di obbedienza civile Il mio voto va rispettato, campagna di cui magari qualcuno avrà già sentito nominare, che in realtà è partita già dai primi di gennaio in tutta Italia e che sostanzialmente vuole che venga rispettato il voto di quei 27 milioni di cittadini che al referendum hanno chiesto che venisse eliminato il profitto dalla bolletta dell'acqua. Perché? Perché l'acqua è bene comune. E purtroppo da quando i referendum sono diventati ufficialmente, sono stati riconosciuti il 21 luglio scorso, in realtà il voto di questi cittadini non è stato rispettato, nel senso che tutti i mesi ACEA, così come tutte le altre compagnie che gestiscono l'acqua nel resto d'Italia, sta continuando a approfittarsi sostanzialmente di quella quota di remunerazione del capitale investito che, secondo il secondo quesito referendario che insomma abbiamo votato il giugno scorso, doveva essere eliminato dalla bolletta. Per capirci, sostanzialmente tutti i mesi ACEA, per quanto riguarda Roma, continua ad approfittarsi e a guadagnare illegittimamente un 18% in più su ogni bolletta. 18% che insomma, se calcoliamo tutti i cittadini di Roma, comincia ad essere una bella somma, considerando anche il fatto di quello che avevamo scoperto pochissimi mesi fa, quando era uscita fuori la notizia che la stessa CEA aveva investito 200.000 euro dei soldi dei cittadini, che i cittadini pagano con le bollette, per finanziare la campagna per il no referendum, quindi per sostanzialmente incentivare la privatizzazione dell'acqua. Quindi semplicemente oggi era un'iniziativa per lanciare ufficialmente la campagna su Roma, che già vede praticamente sportelli per i cittadini aperti in tutti i municipi quasi, e con gli orari che si trovano sul sito www.acquabenecomune.org si accede appunto al sito sulla campagna tariffa, e lì ci sono tutti gli indirizzi di tutti gli sportelli e gli orari di tutti gli sportelli che sono stati organizzati dai comitati che erano nati a sostegno del referendum e che poi hanno continuato giustamente ad essere attivi, perché adesso purtroppo in questo paese siamo costretti a difenderlo insomma con i denti questo risultato, questo bene comune che è l'acqua. E la campagna appunto, come vi dicevo, è iniziata pochissimo tempo fa, a metà gennaio circa su Roma, e oggi che siamo a metà febbraio abbiamo consegnato i reclami dei primi 2000 utenti. Che cosa significa aver consegnato i reclami dei primi 2000 utenti? Che praticamente ci sono già 2000 cittadini che stanno scegliendo, o attraverso il condominio o attraverso la loro utenza singola, di autoridursi le bollette. E perché in realtà appunto è questo il concetto principale della campagna di obbedienza civile, fare quello che la legge in realtà non sta facendo, fare quello che in realtà i gestori non stanno facendo, quindi rispettare l'esito referendario e dire, affermare con questo reclamo, presentando questi reclami ad ACEA, che non si intende pagare quella quota di remunerazione del capitale investito che è praticamente illegittima dal 21 luglio scorso. E questo insomma ci sembra anche un segnale importante, una storia importante da raccontare, rispetto a come insomma in realtà c'è tanta voglia di partecipazione, di costruzione di democrazia dal basso, di attivazione da parte dei cittadini. I comitati che erano attivi appunto per il referendum si sono riorganizzati e si sono avventurati in questa nuova sfida, che insomma diciamo che probabilmente molto più di altre andrà ad intaccare pesantemente quelli che sono gli interessi delle multinazionali, di una multinazionale come ACEA, che fa grossi profitti sull'acqua dei cittadini romani. Quindi insomma questo ci andava di raccontare, abbiamo consegnato questi reclami, abbiamo volantinato qui davanti tutta la mattina, ovviamente eravamo mascherati, visto che insomma siamo anche in clima carnevalesco e visto che insomma è una caratteristica del movimento dell'acqua quello di essere allegro, trasparente, come e l'acqua. Quindi con che vesti vi siete presentati e presentate in piazza? Ne avevamo varie. Beh, ormai il nostro leader indiscusso è Robin Hood, che toglie i ricchi per dare a tutti. Questo è il nostro, sì, è il nostro grande, slogan, è lo slogan, un grande idolo. Del... Esatto, e dopodiché c'erano Batman, c'era l'Uomo Ragno, ce n'erano vari eventuali, e, ma questo pure per sorridere. Dopodiché la faccenda è molto seria e soprattutto è anche il segnale che ci viene dato da questa campagna, il fatto che tanti cittadini decidano di cominciare ad autoridursi le bollette, sicuramente è un segnale che ci deve far riflettere anche appunto rispetto a tante battaglie che facciamo e il modo di incrinare determinati meccanismi. Non è giusto, gli italiani hanno votato, 27 milioni di cittadini si sono espressi a giugno e non è giusto che il loro voto non venga rispettato, e quindi i cittadini ripartono da loro stessi. E da quella che è la semplice bolletta dell'acqua che arriva a casa o si paga attraverso il condominio, e basta pochissimo per attivarsi. Sicuramente è un passaggio in più dopo quello della raccolta firme, dopo quello dell'essere andati a votare. Sicuramente insomma, ci vuole un passaggio di attenzione ed attivazione che è, no, un livello ancora più alto. Dopodiché, una volta capito il meccanismo, una volta spiegato a tutti quanto sia ingiusto pagare ciò che, insomma, illegittimamente, cioè ciò che non dovrebbe essere pagato, poi soprattutto in un periodo di crisi, insomma, spiegare che c'è qualcuno che continua ad arricchirsi sempre prendendo i soldi dalle tasche dei cittadini, insomma, poi il meccanismo va da sé, la gente si organizza, lo capisce, si attiva, e insomma già questo segnale si sembra molto positivo. Sì, la campagna perché non è nemmeno iniziato e già abbiamo potuto presentare i reclami. Ora vedremo come ASEA Auto 2 intende rispondere a questi cittadini che decidono di non fargli fare profitti sull'acqua. Sì, comunque 2000 persone sono tantissime, insomma, in questo breve periodo, per cui insomma credo che l'invito per tutti e tutti sia quello di attivarsi e prendere contatto con gli sportelli dei comitati in questo momento. Esattamente, ci sono sportelli in quasi tutti i municipi, c'è uno sportello che si vede a Rialto tutte le settimane, il lunedì pomeriggio dalle 6 alle 8, il martedì mattina dalle 10 alle 12. Ci sono appunto, c'è il sito che si chiama, anzi che ve lo do con precisione, www.obbedienzacivile.it, su cui trovate sia tutte le informazioni che i link appunto dove ci sono gli orari degli sportelli di tutti i municipi, e soprattutto ci sono tutti i materiali scaricabili dal sito per cominciare a informarsi e diffondere la campagna con ogni mezzo necessario, ovviamente ognuno a modo suo. Che fra l'altro è una campagna che si estende a livello nazionale, anche se appunto ovviamente noi ci occupiamo di quello che succede a Roma, in particolare con ASEA. Esattamente, si estende in tutta Roma, i primi a essere partiti sono stati i cittadini d'Arezzo che pagano delle bollette alla loro SPA Nuove Acque che sono allucinanti, cioè parliamo di bollette che raggiungono i 300 euro al mese per l'acqua, bene comune, alla faccia del referendum, e quindi su cui eliminare una quota mensile di un 18-20% è veramente tantissimo. Dopodiché insomma questo 20% grava anche sulla bolletta dei romani tutti i mesi per un ammontare di 20-30 euro, quindi insomma non è poco, e soprattutto insomma se pensiamo ai grandi numeri dei condomini ancora di più, pensiamo a quanto può essere risparmiato e magari reinvestito su altro, insomma, quindi questo proprio per andare sulle questioni spicciole, ma in generale se insomma abbiamo difeso lo scorso anno l'acqua bene comune dalla privatizzazione e appunto la volevamo fuori dal mercato, vogliamo che questo voto venga rispettato, quindi insomma ci troviamo anche a fare dei discorsi che insomma magari non sempre condividiamo. Il discorso sul voto ovviamente è una questione molto complessa, dopodiché qui si tratta di un referendum che veramente ha visto una partecipazione ma proprio di gente dal basso nella costruzione, nel modo in cui è cresciuto e poi è stato vinto, che no, va al di là di molti discorsi, e adesso bisogna attivarsi per difenderlo. Sì, si tratta di ritirar fuori le bandiere dell'acqua pubblica o perlomeno di non metterle via e anzi proseguire nel percorso, insomma, visto che... Esattamente, il CRAP, che è il Comitato Romano, si riunisce tutti i mercoledì alle 18, sempre a Rialto, quindi io continuo ad invitare perché appunto le riunioni non si sono fermate un attimo neanche dopo il 13 giugno, perché appunto sapevamo che avevamo evidentemente, insomma eravamo andati a intaccare degli interessi molto grossi e che quindi bisognava mantenere alta l'attenzione, non perdere un secondo. Insomma, adesso ci siamo riorganizzati a livello nazionale, è partita questa campagna, sta andando benissimo nonostante il maltempo e niente, quindi insomma abbiamo solamente che da ben sperare, insomma chiediamo ovviamente a tutti di attivarsi ognuno a modo suo. Benissimo, noi ti ringraziamo e insomma penso che sentiremo ancora parlare di acqua, della campagna di obbedienza civile Il mio voto va rispettato. Ricordiamo ancora il blog www.obbedienzacivile.org e .it. Ripetiamola ancora, obbedienzacivile.it, e niente, insomma, per organizzarci tutti e tutte per questo, insomma, per fermare questa estorsione, perché a questo punto di questo si tratta. Esatto, un'appropriazione indebita la chiamerei. Ok. Va bene, grazie a voi, un saluto a tutte e tutti. A presto, ciao, grazie. Ciao.